ragazzi, mi sono fumato il radio. Signore e signori, è con immenso piacere e un pizzico di ardire che annunciamo l'inizio delle trasmissioni. Radio Catrame 19, la radio inusuale. Star nei peggiori bar a lavorare e negli autogrill di Ferrara Nord a dormire. Ci trasferiremo a Parigi e non avremo mai più soldi per tornare indietro. E gli sbagli sono sempre stati nell'asfaltare i prati e non i preti, tanto poi tu parti e io ho bevuto 40 bicchieri di vino annacquato per essere più disinibito sul palco e mi sono addormentato facendo sciogliere una tachipirina sotto la lingua. Parla come scrivi il numero 33 e cominciato con una nostra vecchia conoscenza. Vasco Brondi, altrimenti detto Le luci della centrale elettrica. Primo libro, sicuramente non sarà l'ultimo, cosa racconteremo di questi cazzo di anni zero. Uscito 2 settimane fa in anteprima a Ferrara, al Festival Internazionale, fra poco in tutte le librerie. Edito da Baldini e Castoldi. Così famo pure la pubblicità, l'ha visto? Perché ricordiamo, caro il Mistrennik, che noi siamo una trasmissione seria che parla di libri, perché si chiama Parla come scrivi. Parla. E noi i libri li vogliamo raccontare. E noi i libri li parliamo. Parliamo i libri. Oltre a parlare i libri, stasera ci abbiamo un bel argomento internazionale, visto che parlavamo prima del Festival Internazionale che c'è stato a Ferrara. Una settimana fa, e stasera abbiamo un tema internazionale per la ripresa dei programmi di Parla come scrivi. Siamo nel solito vagonaccio. No, non è vero. Perché? Non è vero. Il vagonaccio non è più quello. Infatti, ai nostri fedelissimi spettatori, diciamo, dov'è che siete stati negli ultimi 5 mesi? Siamo stati a rimettere a posto il vagonaccio. Finalmente questa radio è cresciuta tantissimo, ha un vagone nuovo, molto più ampio, un vagone di prima classe, diciamo. Sì, insomma. Vabbè, un po' meglio rispetto a prima, insomma, meglio. Ma prima. Ma presente la prima classe in Italia, lascia aperta, lascia stare. Anche perché il vagone si è fermato mesi or sono, anche perché aveva avuto delle scossettine italiane sismiche non tanto carine. Esatto. Comunque siamo in uno studio nuovo, completamente nuovo, da cui vi trasmettiamo e il vagonaccio appunto si è ridipinto, si è allargato, anche perché ci si sta molto meglio, sì. Mi sembra, e quest'anno siamo un po' più larghi, purtroppo, anche per un'altra cosa, perché per questi primi 3 mesi purtroppo non abbiamo qui nel nostro vagonaccio stabile il nostro sociologo Calzolai, il nostro fraterno amico sociologo Calzolai. Intanto sentite di sottofondo la chat di Radio Catrame che va mentre appunto io devo cercare di togliere il bip che non è carino, perché sembra più che altro il tuo stomaco che fa sì, che si rivolta. Quindi abbiamo quest'anno però il nostro sociologo Calzolai che è in trasferta per questo mese, e si tratterà anche e a più, novembre e più e più è a Bruxelles in Belgio, ecco perché abbiamo aperto con Vasco Brondi con questa cosa di trasferirsi a Parigi. Il collegamento che facciamo stasera con gli ospiti che ci sono stasera avverrà in francese con una traduzione diciamo così immediata, simultanea come si dice, del nostro sociologo Calzolai che dalla località in Belgio, ve la faccio dire bene da lui perché ha anche una bellissima pronuncia, ci parlerà della baracca. La baracca che ve la spieghiamo bene tra pochissimo mentre vi rialziamo dei Stis Red e poi mandiamo una canzone. Quel cialtrone di Hans, che adesso è in Belgio, appunto per l'amor di Dio, e fa anche da gran chilometri quella volpe di Hans, però ci ha lasciato, lasciandoci senza chat. Quindi anche Marina, che ci sta parlando via chat, la chat di Skype, ci dicono che purtroppo la usuale chat che si trova su www.catrame19.it non funziona. Mi dai conferma? Sì, do conferma che non funziona, e visto che la nostra chat di Skype la ruberà interamente fra poco quel francese del Calzolai, ragazzi, non so che dire, questa sera saremo un po' meno interattivi del solito. Sì, sì. Anche perché rispetto all'ego di Calzolai prende già tutto lui e c'è poco da dire. Sì. Infatti noi abbiamo adesso da fare questo collegamento con... Colleghiamoci. Aspetta, facciamo una cosa. Diciamo, ecco, per esempio, ciao Mari, mi si sente, però purtroppo in chat si sente anche questo blip blip, che è blip blip blip. Ora potrebbe essere anche una cifra stilistica, sì. Lasciarlo. È molto 2.0, è molto 2.0. Io lo lascerei, sì. Si lascia, perché... chattateci tranquillamente su Skype. Perché come direbbe il sociologo Calzolai, quando fra 1000 anni troveranno un MP3 di... Catrame 19 ti parla come scrivi, sì. Sentiranno, ma che cosa, ti ricordi Skype, quella roba arcaica, che quando si telefonava lì, noi stiamo facendo la storia, ragazzi, sì, noi sì. Qui si fa la storia. O si muore. Insomma, voglio parlare col Calzolai, anche perché il nostro Calzolai manca dall'Italia da qualche mese e gli devo raccontare brevemente quello che è successo, poco. Sì. Lo raccontiamo, intanto Hans ci manda della bella musica. Green Meadow, Jennifer Allen. The cocoons in which we're importantissimi per collegarci dal Belgio col nostro sociologo Calzolai. Un attimo soltanto che dico se ci riusciamo a passare la musica di sottofondo. Ci siamo e proviamo a chiamare il nostro sociologo dal Belgio. Vediamo se ci risponde, chiama. Sì, perché ci abbiamo parlato adesso in chat, quindi deve rispondere per forza. Vi ricordo che la chat di Catrame19, quella sul sito www.catrame19.it, non funziona, quindi dovete accontentarvi di quella di Catrame19 via Skype. Se non siete tra i nostri contatti, addateci e noi vi si... insomma, diteci di metterci tra i nostri contatti, noi ci si mette, addateci. Senta, sociologo Calzolai, lei mi sente? La sento benissimo. Oh, che gran piacere risentirla. Ma perché ci si dà del lei, scusa? Buonasera, buonasera Calzolai, come sta? Mi sento vicino a voi, ma come se fosse lì, ma non vi vengo. Cioè, mi tocchicchio dalle parti, tocchicchio un qua e là, e non ci siete. Dove siete? Giù le mani, vecchio porco, giù le mani. Non ci provi, per cortesia, non ci provi. Comunque no, non ci siamo perché te sei in Belgio, dici la località precisa. No, sono a Louvain-la-Neuve, che è nella Brabant Wallonie, vicino a Bruxelles, verso sud, dove riprendere la E34, la nazionale. E poi, quando incontrate... Cosa fai? Dai le indicazioni come fosse un satellitare. Sì. Do le indicazioni di dove sono. Ah, Google Map, vai. Google Map. E sono andate un po' più avanti, così lo si vede su Google Map, benissimo, oppure compratevi un navigatore. Girate a destra, dopo la rotonda che va verso l'università UCL, sì. Invece di girare verso l'università, andate a destra, c'è una stradellina con su scritto La Baracque. La Baracque. Nel comune di Otigny-Louvain-la-Neuve. È una storia lunga e complicata, ed è una storia un po' strana come del resto la nostra storia, diciamocelo tranquillamente o serenamente, la nostra storia, perché tra i pochi che vedo qui, poi ce ne stanno altri di nuovo spettatori che ci ascoltano e ci seguono. Ma guarda, erano tanti, scusa se ti interrompo, ma erano veramente tanti stasera, erano decinaia, dicevo, non si avvicinavano le... Siamo tanti, sulla chat di Skype c'è qualcuno che scrive dal Brasile, mi dicono così, sì, da Porto Alegre. Sì, sì, è vero. Dal Portogallo e poi anche da Glasgow. Da Glasgow, sì. Dall'Italia naturalmente, insomma è un programma internazionale, quindi noi va bene così, va bene... parlare a livello internazionale. Il casino sono un po' le lingue, però stasera so che te hai, diciamo così, sarai la nostra letto. Torre di Babele. Esatto, sarà la nostra... ci riuscirai a parlare di questa La Baracque, no? No. Allora, no, intanto vorrei dire una cosa. Ci sono, noi diciamocelo subito. Ecco, avevamo pensato un po' di commentare insieme a degli amici della baracca, sì. Relativamente a quello che è un po' questa esperienza, in particolar modo con uno dei fondatori della baracca, sì. che però purtroppo è successo un problema all'ultimo momento, avevamo organizzato tutto, cioè tra l'altro avevamo anche preparato un'intervista adesso tra noi, quindi ve la ripeterò un po' qua, cioè relativamente a... lo svilupparsi, la storia della baracca, però lui, purtroppo, lei, scusate, è un'architetta, che purtroppo per motivi urgenti, purtroppo è dovuta partire in questo istante, l'avevo qui accanto. Poco prima che facessimo il collegamento è successo. Esatto. Vi giuro che è vero. No, so che... Mi scusi Calzolai, ma lei è il solito cialtrone, in qualsiasi parte del mondo lei si trovi, è il solito cialtrone. Cioè lui si monta una puntata su di lei e su questo aggancio pazzesco, devo dire, è un cialtronaccio. Lei stradico, non rida, perché noi già in Italia... Ma è sfortuna. Senta, adesso mi arrabbio. Adesso mi sono arrabbiata, faccio peggio della Bindi, per cortesia. Lei è all'estero da non so quanto tempo. Ha la fortuna di non vivere in quest'Italia un po' stortina di questo periodo. Un po' perché voglio essere cortese questa sera. Noi la chiamiamo solo per avere un momento di aria, per vedere come nel resto dell'Europa le cose vanno bene. E lei non ci segue. Calzolai, ma lei si rende conto che in questo momento nel vagonaccio alle nostre spalle c'è un monitor collegato in diretta con Rai 3 e con Ballarò, e alle nostre spalle abbiamo due figure nello schermo, nella persona di Angiolino Alfano e Massimino D'Alema, e lei ci fa queste cose. Cioè, noi allora, siamo no, in condizioni precarie. E poi c'è X Factor. Poi c'è X Factor che ci sarebbe molto. Sa che lei bisogna combattere un palinsesto ancora nazionale popolare. Sa che ci dobbiamo, anche se abbiamo un pubblico internazionale, qui bisogna sgomitare e insinuarsi nei meandri di questo gusto nazionale popolare. Allora, diciamocelo subito. Sì. Al di là del fatto che, anche se c'è qualche, diciamo così, difettuccio, sì, perché purtroppo questo incidentuccio è successo. Sì, ora cominciamo però, tutti questi pezzicciatini. Incidentuccio, tesoretto, che ma possiamo dire... Cioè, io sono l'utilizzatore finale! No, però, vogliamo dire, cioè io sono stato inviato qua dalla redazione di Radio Adrami, sì. Però a pensare a questi aspetti più tecnici e amministrativi, detto tra noi, è... Questo non c'è, ma lo sappiamo che... Sì, sì, beh, sì, ma quanto non ti stavo... È che ci fai la figura del... Parte... Del cialtrume te, che è colpa di quel maledetto di Enz. Scusa se mi sovrappongo, scusa. Però è Enz che fa queste stupidaggini. Però, comunque sia, ecco, io, come dire, ho raccolto commenti, visualizzazioni. Visualizzazioni, sì, cioè la baracca c'è anche nella home page di Radio Catrame. Insomma, questo posto... Certo, si è montata una puntata sopra e lei l'ospite non ce la porta, caro il miciatrone. Voglio dire, potevo stare sul divano a vedere X Factor e invece no, sono qui. Senti, ma non so perché continua lì a darti di lei. Comunque, vabbè, quest'anno è il milieu, come si dice, si trova il milieu, va. Comunque è questo, ma non è che è colpa di Enz, anche perché lei può averla importunata, cioè Enz sai che c'ha dei modi di fare, non sessualmente, però che è molto rozzo, non saluta poco, se no fa delle facce strane, ma sai, a volte intimidisce Enz, non so se te l'hai tenuto chiuso o se invece l'ha lasciato libero di girovagare per la stanza mentre c'era anche lei. Sì, questo potrebbe essere, insomma, sì. Penso anzi che Enzo si stia espandendo, insomma, dopo aver molestato, infortunato altre invitate, diciamocelo chiaramente, sì, sì. Forse è tutta una strategia. Sì, ma per fortunare anche altre invitate ai paesi esteri, forse questo anche. No, io mi rifiuto, cioè io, secondo me Enz ha finito di lavorare per noi se ha fatto una cosa di questo genere. Non, io non ci voglio avere niente a che fare con Enz, sai che già una volta ci siamo avuto i nostri... Vabbè, non rivanghiamo le cose, andiamo avanti seriamente. Che noi dietro siamo incalzati, quindi andiamo avanti. Innanzitutto salutiamo Mattia, che anche se ci ascolta di nascosto, noi lo sappiamo... Che esiste e sta lì con la cuffietta e ci ascolta. Ciao Mattia, grazie comunque di ascoltarci in Nicola. Ciao Mattia, e lei, il dottor Calzolai, sta riscuotendo tanto successo che nella nostra chat si parla in effetti non della Barak ma di X Factor, cioè che mi dicevano che si è appena esibita a Scancanensi e che stanno facendo le eliminazioni. Non so se le interessa, ma fra un po' sapremo chi è eliminato della prima manche, magari è più interessante della... No, ragazzi, ora non esageriamo, cioè c'è sempre una questione deontologica. È vero. No, sono perfettamente d'accordo con lei, dottore, perfettamente d'accordo con lei. Stacchetto, Io, ragazzi, cioè, devo dire... Enzo, io manderei un pezzettino di musica. Sì. Vuol mandare un brano musicale. Ma Enzo, a questo punto io gli toglierei tutto perché cioè, se veramente è colpa sua di questo disguido dell'impossibilità di parlare in diretta con l'ospite, cioè, per me ha chiuso Enzo. Cioè, bisogna parlarne seriamente di questa cosa. Intanto vi si manda dell'altra musica, come diceva il nostro sociologo, qualcosa comunque riusciamo a dire, no? Certo, no, dopo no, a parte tutto ci sarà la sorpresona e dai vari danni. E allora guarda! No, veramente no, certo, abbiamo un piccolo contrattempo, però come cioè la nostra vita è una vita fatta di ganci, di rimandi, sì. E quindi la storia si svilupperà. Sì. Si svilupperà. Dopotutto stiamo parlando di città invisibili. Sì, ovviamente. Musica! Musica, la nostra musica di questa sera viene dalla Ghost Records che ha messo disponibile online e scaricabile gratuitamente questa compilation che si chiama Haunted by Ghost, quindi infestati dai fantasmi. A noi ci è piaciuto molto, l'abbiamo scaricata e se ne mettiamo appunto le canzoni stasera anche per diffonderla e farla diffondere e farla conoscere ad altre persone, quindi senza il bisogno di quello screanzato di Hans, noi andiamo a mettervi ancora un brano che è precisamente Vieni a vivere di Dente. Dente, proprio sai Dente. Vai Hans, maledetto. Anido d'ape, olisca di pesce, facciamo una casetta tutta come ci va. Mettiamo il letto sul pavimento, che al mal di schiena ci pensiamo nell'aldilà. Prendiamo tutti gli accorgimenti, la testa a nord, le gambe 10 gradi a sud-est. Vieni a vivere come me, vieni a vivere come me, vieni a vivere come me, com'è che non ti muovi, com'è possibile? Poi fumiamo le sigarette, che a casa nostra non ci vengono mamma e papà, mangiamo tutte le scatolette, beviamo birra, andiamo a fare la spesa al discount. Vieni a vivere come me, vieni a vivere come me, vieni a vivere come me, com'è che non ti muovi, com'è possibile? Mettiamo un disco sul giradisco, baci in cucina, baci in sala, baci in garage. Facciamo 120 bambini, tutti con dei nomi molto particolari. Così gli canto una canzone di quelle belle che li fanno addormentare. Vieni a vivere come me, vieni a vivere come me, vieni a vivere come me, vieni a vivere come me, vieni a vivere come me, vieni a vivere come me, vieni a vivere come me, vieni a vivere. Ascoltando Radio Catrame 19, la radio inusuale. Caro, il mio calzolai. Sentite il tempo ci fa. C'è un vento qua. Un vento incredibile. Un vento europeo pazzesco. Siamo sempre in onda. Allora, a parte gli scherzi, caro calzolai, questo piccolo problema tecnico, anzi ci dispiace molto che questa nostra ospite questa sera non c'è, ma tu sei perfettamente in grado di raccontarci che cos'è la baracca. È vero. La baracca Io in questi giorni ho anche... La baracca nasce nel 1970, cioè movimento, forse anche vicino al 68, e nasce da, diciamo così, da un gruppettino di persone che abitavano abusivamente le campagne di Ottigny, vicino a Bruxelles. Ora, negli anni 70, nei primi anni 70, l'Università di Lovanio, sì, che si trova nella parte tedescofana, così, del Belgio, decide di espellere i professori francofoni, perché insomma il Belgio è comunque sia diviso fra, diciamo, fra gruppi linguistici diversi, sì, sì, sì. Ci sono anche delle... È uno stato regionale, proprio per questo. Uno stato regionale. E l'università di Leuven decide di, come dire, di buttare fuori, o comunque sia di escludere, i francofoni, che decidono di costruire una Leuven la Neve, che nella accezione, così, nel francese diventa Leuven la Neve, cioè la nuova Luvanio. È un po' una sorta di ripicca il nome, e la nuova Luvanio nasce, diciamo così, nella campagna più piatta del vicino Bruxelles, vicino tra Bruxelles e la Francia, e nasce un'università dal nulla, che si chiama appunto la nuova Luvanio, e che ha un po' una sorta di sfotto nei confronti dell'università di Leuven, l'originaria, tant'è che le vie anche di Louvain-la-Neuve riprendono i nomi, le piazze riprendono i nomi di Leuven. Ora, nasce l'università e poi nasce intorno, diciamo così, una diatriba, perché l'università acquista dei terreni, sì, che sono in parte di privati, in parte del comune, di proprietà pubblica, e su questi terreni comunque c'è un piccolo gruppo di case che viene arricchito dei primi anni 70, 72, 73 dagli studenti, che decidono di mettere su roulotte, mettere su delle roulotte, dei piccoli furgoncini, oppure delle casette autocostruite. Decidono di allargare un po' questo piccolo centro urbano, sì, che poi prende il nome di La Baracque e diventa una piccola comunità. Sì. Cioè diventa una piccola comunità, però non è soltanto una questione del facciamoci la casa. Cioè La Baracque, per quello che ho visto io, purtroppo il nostro ospite, cioè, ha avuto un problema, erano le cose che gli volevo domandare. Cioè La Baracque nasce intorno ai concetti dell'autogestione, nasce intorno a un dibattito, cioè quello del noi esistiamo come comunità, cosa cazzo volete voi, perché ci volete buttare fuori. E allora si è occupato per anni, si è fatto ricorsi e si è fatto battaglie per avere un pezzettino di terra dove continuare a costruire piccoli artefatti, manufatti e lì, e poi anche per continuare con queste roulotte modificate, questi camioncini, e fare, diciamo così, un'edilizia che per definizione è popolare, perché è fatto dal popolo, dagli studenti, che poi hanno cominciato a creare e a rinforzare un'associazione, e quindi la presenza di attività culturali, musica e così via, fino ad arrivare ai giorni nostri, in cui questo dibattito, che poi è giusto fare, anche fare questa sera, che è un dibattito per certi versi è moderno, contemporaneo, ovvero la parte privata e la parte pubblica, l'autogestione, i limiti dello Stato e le volontà di gruppi di persone ispirate da dei valori che forse sono anche diversi da quelli degli amministratori locali. Questo è un dibattito attuale, era questo il topic della puntata di Parla come scrivi, e quello che non si voleva appunto discutere con Marielle, che purtroppo però lo dico per l'ennesima volta, colpa del destino o di Enzo, che combina queste cose, poi la responsabilità chiaramente me la prendo anche un po' io, però appunto esiste soltanto La Baracque qui a Louvain-la-Neuve, oppure anche esistono altre realtà in giro per l'Italia, per il mondo? Cazzolai, mi scusi se la interrompo, ma di che dimensioni stiamo parlando, se lei lo sa? Dagli anni 70 in poi è una comunità che si è stretta attorno, non lo so, a una decina di persone, che nel tempo è cresciuta. Attualmente, se c'è, come è andata avanti? Lei ha qualche dato? Parlandone così si parla di dati variabili, però sono 300-400 persone. Poi intorno alla baracca ci sono anche delle baracche che sono diventate case più abitabili, quindi diciamo c'è anche un piccolo agglomerato urbano vicino al, diciamo sì, al centro storico per modo di dire della baracca, però si parla, chiaramente non è né un comune né nulla, però si parla di un po' di persone rilevanti, si parla di 500 persone, anche di più, o comunque quindi sia la baracca. Quindi un numero abbastanza consistente, sì, insomma, non è proprio... Pure, cioè, l'altra sera, che ne so, nel centro, diciamo così, c'è una sorta di centro culturale della baracca, molto, molto bello, molto carino, c'era una festa con attività culturale, letture e così via, e lì, insomma, soltanto di giovani che, o studenti o persone che abitano qui vicino, era... Insomma, c'era quel centinaio di persone, c'era partecipazione. Ma nel corso degli anni, sempre che lei sappia, la gente che abita nella baracca è sempre la stessa, ha cambiato, c'è un ciclo continuo, ci sono persone che vanno e vengono, o ci sono, diciamo, degli stanziali ormai? Allora, questo era un pezzo interessante, cioè, ne parlavamo prima, cioè, in realtà, mentre negli anni 60-70 la baracca è nata intorno, diciamo così, ad un sistema di valori e di idee, cioè noi stiamo qui, non vogliamo pagare per le nostre abitazioni, o comunque non vogliamo pagare cifre particolarmente elevate, e poi costituiamo un'associazione culturale, facciamo una vita di comunità, ci scambiamo le cose, e questo appartiene a tutti, prendiamo in affitto una roulotte per tot anni, la miglioriamo e poi la lasciamo a qualcun altro, tant'è che, cioè, tutti quanti hanno partecipato a migliorare il proprio edificio, la propria abitazione, per lasciarla a qualcun altro pagando cifre piuttosto basse, irrilevanti, e comunque stia migliorando poi tutto l'insieme. Ora, questo è molto bello. Sì, sì. Però, come dire, l'idea, diciamo così, qui ci sono, se ne parlava prima un po', delle visioni anche differenti, perché fondamentalmente... Aspetta, entriamo poi dopo magari nella nostra sfaccettatura, perché così sembrerebbe un corpo compatto, dove invece penso che sia proprio la differenza, no, fra le varie visioni che fa la ricchezza di questa comunità, pur avendo dei valori solidi alla base, valori solidi alla base, non avrei mai pensato di... Questa cosa qua, anzi, io manterrei un'altra canzone adesso, così spezziamo un po', riusciamo a riprendere il discorso sulla chat con altre persone che sono arrivate, ci facciamo fare anche delle domande, se vuoi noi prendiamo anche le domande dalla chat, se ce ne sono, e te le porgiamo. Intanto te ne fa una, io ci pensi durante la musica, sì. Mi dici che problemi e se hanno avuto qualche problema con le istituzioni locali, che cosa è successo? Mm-hmm. Pensaci. Ci pensi? Sì, sì, certo. Non ci pensa tanto, sennò ti sudano gli occhi, come nella canzone che si sente adesso. Lui si chiama Eno Rocco, loro si chiamano Eno Rocco, questo lo confesso, non lo so, però è bella. Sudano gli occhi per immenso dispiacere, tu fuori di qui, senza pietà, nell'eventualità, spingo le gambe al moto, io me ne andrò. Rapidi sguardi per capire che non c'è il rosso denso che sospinge i passi in me. Contro la forma se c'è di che sostanziare lo spirito. Mi provochi con le tue frasi che hanno un dolore logico, ma illogiche son di per sé. Rapidi sguardi per capire che non c'è il rosso dei so che sospinge i passi in me. Sguardi per capire che non c'è il rosso del so che sospinge i passi in me, senza quel sangue che errore sogni in te, saprai di vuoto in mobile come non sei. Rientriamo in studio, riapriamo il collegamento con il nostro sociologo che avrà avuto modo di pensare alle varie cose che ci siamo detti prima, la domanda specialmente che gli aveva fatto Liv. Sì, che nel frattempo ha avuto una proposta dalla chat di andare via e non sarai più solamente tu quello che potrà andare all'estero, perché a me mi hanno proposto di andare in Scozia a fare l'inviata. E caro amico Azzolai, io me ne vado in Scozia e faccio l'inviata anch'io, perché so meno di Cazzolai, solo lui lo può fare l'inviato, io devo fare l'inviata e te estremi che rimane nel vagonaccio qui fermo e solo, sempre più e sudicio sempre più spopolato. Via, io vo così. Capito? Quando lascerà Pierre. Intanto hanno eliminato, se ti interessa, da X Factor i Luana Beats, che in effetti erano abbastanza scarsini. Ma la cosa che. Sì, non sono bravi, ma la cosa che mi sconcerta di più è che, guardando dai nostri plurimonitor, anche un po' Ballarò, sembra che stranamente il Lupo D'Alema questa sera non attacchi. Va bene. Non sia molto di chiacchiera. Sta ancora trovando. Quando parla D'Alema, te lo fa sapere Cazzolai, perché sarebbe interessante, o no? Lei che dice? Ma dico, ragazzi, che ora, a parte la sfida di essere qua, insomma, a commentare di una baracca, di una città, sembra veramente di leggere Italo Calvino Le città invisibili, perché fondamentalmente l'unica persona che mi poteva raccontare la baracca per averla costruita, vissuta e cullata, e se n'è andata via. Però questo aspetto qua che la Liv mi diceva prima, ovvero se c'è stato conflitto oppure no, nel corso del tempo, bella domanda Liv. Grazie. Non c'è stato conflitto, però da come mi diceva lei c'è stata un po' un'attenuazione del, diciamo così, del movimento, cioè le ragioni per cui la baracca è nata, una vita di comunità, uguaglianza, condivisione, un'economia solidale, lo scambio delle cose, avevano pensato anche, come dire, a disporre secondo una disporre sul terreno le abitazioni in modo tale che non fossero né troppo lontane né troppo vicine, cioè ci fosse, come dire, una socializzazione nell'urbanizzazione di questa piccola città. E purtroppo però, più che il conflitto, cioè, che non c'è stato, anche se ci sono, diciamo così, però si è forse perso le ragioni, o quantomeno si sono allentate le ragioni iniziali che hanno promosso la baracca. E forse, pensando al fatto che stasera c'è ancora D'Alema a Ballarò, forse mi viene da pensare che questa tendenza non sia soltanto una tendenza della baracca, all'Uvella Nerve, ma che sia un po' una tendenza diffusa, un po' ovunque. Sì, c'è un problema però, che in Belgio hai solo la baracca e in Italia abbiamo baracca e burattini, ed è un po' dura, e abbiamo anche nani e ballerine, e quindi è un po' diversa, caro il mio sociologo, perché lei fra nani e ballerine non ci si sta mica bene, insomma. Comunque, mi scusi, sì, però sono un po' provata in questi però io vorrei... Ci spargeremo per l'Europa come un seme buono o cattivo, non lo so. Guarda, io in questi giorni, cioè la cosa va bene, noi siamo qui, si scherza, si gioca, però ci sono persone straordinarie che ci ascoltano e gli si vuole tutti bene il mondo, i nostri cari amici o spettatori, però la questione è piuttosto seria, cioè il fatto... Io mentre sono qua non parlo soltanto di Berlusconi, che Silvio Berlusconi sia un deficiente o che comunque stia progredendo lentamente verso la follia, è cosa risaputa ormai da molti anni, ed è da prima del 94, ancora prima che si candidasse la prima volta come Presidente del Consiglio, ma che in Italia con due governi del centro-sinistra, ora vabbè, si fa le solite polemiche, non si sia riusciti un attimo a mettere le mani su un sistema della comunicazione o della libera informazione. Dai ragazzi, sei in diretta su Ballarò in questo momento. Sei in diretta su, occhio a quello che dici, sei in diretta su Ballarò, stai parlando sulla Bindi, attenzione, stai, non fa la solita figura che ha fatto Berlusconi, che sai, fa sempre queste grezze incredibili, proprio un rozzone proprio. Caro scusate lo schiarimento di voce. Caro Cazzolai, quello che dici tu è sacrosanto e va bene. Ma un'altra cosa ti domando, visto che sei in una posizione privilegiata dall'estero, visto che ormai è noto che tutto il mondo non fa altro che percularci ormai da tempo e sempre di più, e non si spiega, il Washington Post per ultimo oggi diceva: ma come mai lo votate ancora? Dal Belgio cosa dicono di noi? Ad esempio, ti sarà capitato qualche bellissimo belga che ti ha detto: ah, tu sei il ciurlo che in Italia c'è Berlusconi o no? La baracca, per esempio, cosa dice la baracca dell'Italia berlusconiana? Ma fondamentalmente non c'è un'analisi profonda, c'è un Silvio Berlusconi preso per il culo e c'è un'idea dell'Italia un po' anche superficiale, cioè italiani un po', cioè, che cazzo fate in Italia? Cioè, di vischi, tra noi forse sì, siamo un po' considerati tali, ma non è che ci sia un'analisi seria, una discussione che va oltre, secondo me non va oltre la regia Berlusconi. Personalmente penso che centro-sinistra in Italia non ha saputo pensare le politiche, cioè la prima volta che dovrebbe fare un politico e non le pensa nemmeno ora, perché i problemi che si affrontano, guardate che c'è una crisi dell'economia, cioè l'economia, cioè, al di là di come la si voglia vedere, si abbassa il prodotto interno lordo di tutti i paesi, la ricchezza parla più vicino al microfono, più piano, la ricchezza si sta riducendo, cioè questo è il dato di fatto, cioè che è una cosa abbastanza importante, perché migliaia di professori universitari nelle facoltà di economia, di scienze politiche, per un attimo avrebbero, come dire, potuto anche prevedere una sorta di crisi del sistema economico. Cioè, in realtà, secondo me, la discussione su Berlusconi sta coprendo anche il nulla che c'è sotto. Certo. Cioè, si prende a riferimento queste cose qui, queste figlia va a mignotte, ragazzi, ma era anche prima così, però questo accanimento, cioè, che sta venendo fuori, che sì, è giusto che i giornali stranieri lo facciano, che cavolo hanno da parlare dell'Italia, e poi è abbastanza emblematico, cioè è un po' una sorta di artefatto di periodo che si sta vivendo, cioè è uno sputtareo totale, e ci prendono per il culo dalla mattina alla sera, perché poi in fondo, come dice Marina qui sulla chat di Skype, cioè, dei problemi seri qua non è che se ne stia parlando, cioè ad Aulla oggi, sì, sono qua in Belgio, però mi informo di Aulla, hanno sequestrato il sindaco, cioè ora no, ma chi, diciamo chi, se no sembra che siano stati dei rapinatori o dei sequestratori o cioè una banda di criminali, l'hanno sequestrato dei lavoratori che hanno una situazione tragica. Sì, questi episodi ci sono un po' in tutti i paesi europei negli ultimi tempi, ma ci sono anche in Italia, cioè i livelli di incazzatura media soprattutto nelle classi più deboli, stanno salendo. Classi più deboli che non trovano rappresentanza in nulla, tant'è che gli sfoghi, come probabilmente per i lavoratori di Aulla, sono quelli di andare e sequestrare il sindaco. Sì, allora, sono atti, manifestazioni. Alcuni altri ce la fanno nemmeno. Cioè, sì, mi dicono dalla chat che il sindaco era d'accordo? Sì, il sindaco era d'accordo? No, penso proprio di no, cioè, quantomeno leggendo. Comunque ci sono anche altre domande la baracca. Te le passiamo dalla chat, possiamo passartele? Sì. Allora, scusa, vai. Vado, la domanda era da un nostro ascoltatore, non ha capito bene però come campano la baracca. Campano facendo dei lavoretti in quella, però lavorano anche, perché negli ultimi anni è aumentata un po' una situazione di disagio, cioè persone veramente povere, senza, cioè le abitazioni sono abitate da persone che non hanno altro e non hanno nemmeno un lavoro, situazioni anche difficili, e poi soprattutto campano attraverso un sistema, questo qua ha segnato la baracca fin dall'inizio, cioè ovvero quello dello scambio e della condivisione, cioè quello che è mio è tuo. Si mangia insieme la sera e si condividono le cose. Sì. Quindi credo sia stata quantomeno. Cioè, diciamo che tutti gli effetti comunque è una comune, quindi i bisogni primari vengono condivisi con le altre persone e diciamo per il resto delle cose comunque tutti hanno dei lavoretti che li fanno andare avanti, insomma. Sì. Diciamo così, si può vivere anche con meno o con poco, perché ci sono anche situazioni difficili alla baracca, però diciamo l'idea iniziale era quella di un'economia solidale e in un contesto di qualità, e progressivamente sembrerebbe dalle poi fonti che ho registrato, sembrerebbe che invece sia un po' cresciuta la parte di disagio negli ultimi tempi. La parte, scusa, di? Disagio. Cioè di povertà diffusa nella baracca. Ma per capire, sempre un'altra domanda della chat, questa baracca, per intenderci, è un po' una roba, diciamo, da intellettuali o più rustica, genuina, ci chiedono? Prima era degli intellettuali e progressivamente è diventata un po' più rustica. Mm-hmm. Anche se ancora c'è un centro culturale che avvicina gli studenti, che è comunque sia integrata quasi integrata nell'università di Lovella Nera, che è una realtà gigantesca, insomma, gli iscritti sono migliaia, vengono da tutta Europa. Quindi mi stai dicendo che comunque la baracca funge in qualche modo anche un po' da casa dello studente, insomma. Sì, comunque si ha dei contatti con gli studenti che la frequentano, in alcuni casi la abitano, e continuano ad abitarla, molti ci stanno per un monte di tempo, per anni, e questo. Poi c'hanno i benefit, Julia Kravitz domanda se c'hanno i benefit del Belgio, sì, qualcuno ha anche dei benefit del Belgio. Spieghiamo cosa sono i benefit. Cioè dei ammortizzatori sociali. Ammortizzatori sociali. Sì, reddito minimo di cittadinanza, qualcosa di questo. Reddito. Sì, sono più sul reddito di minimo di cittadinanza, però non danno appartamenti, cioè danno degli stipendini. Stipendini? Sì, piuttosto, però bassi, non particolarmente alti. Non conosco la situazione del welfare in Belgio. Please, veramente, non conosco la situazione. Credo che l'indebitamento del Belgio sia cresciuto negli ultimi anni proprio per questo motivo. Credo sia una tendenza, quella della spesa sociale, un aumento, una tendenza che ha caratterizzato il Belgio. Uh-huh. E poi anche una tendenza quella di crisi dell'economia. Perché in generale, però qua è un po' accentuata, tant'è che alla crisi dell'economia e alla crisi dello Stato è aumentato, come dicevano, anche un po' i livelli di conflittualità tra regioni, cioè Fiamminghi e Valloni, e le istanze di regionalizzazione o comunque sia di separazione o federalismo, soprattutto dei Fiamminghi. E quello che tiene. Ora io non conosco bene il Belgio, però la realtà di Bruxelles è una realtà, cioè, impressionante, perché forse il Belgio lo tiene insieme gli arabi. Cioè, una cosa assurda, ma Bruxelles è abitata da tantissimi immigrati, anche di seconda generazione, che abitano Bruxelles. Questo è molto interessante, ci si vuole fare un'incursione nelle prossime puntate, oltre a collegarci naturalmente dalle altre numerose città europee da cui ha sentito il nostro... Sì, anche extraeuropee. Anche extraeuropee, come il nostro pubblico ci ascolta. Il nostro pubblico, lo devo dire questa cosa. Io ho web spettatori, il nostro pubblico fa schifo di nostro pubblico. Ma cazzolai, l'ultima curiosità e poi ti lasciamo, anzi ci lasciamo un po' di musica. Ma Bruxelles, oltre che essere sede del Parlamento Europeo, ma si sente di più l'Europa? O è solo una sede Europa istituzionale? Si sente di più, secondo te, così, a occhio, anzi, a orecchia? È impressionante, cioè se accendi la radio da Luvella Neve e vai verso Bruxelles, cioè giri un po' la radio, cioè Radio Madrame, però senti due, tre lingue differenti. E questo è, cioè l'Europa è un mischione, perché qua si parla inglese, francese e fiammingo, e questo è, insomma, per me è una cosa nuova, cioè qui si sente veramente, più che l'Europa, è una internazionalizzazione. Un crogiuolo. Sì, un crogiuolo. Crogiuolo musica! Senti, mi dicono di mettere della musica, non so, c'è un sostituto di Enze che è impresentabile, più di Enze, e Dive Into Tears, un tuffo nelle lacrime, siamo sicuri di metterla? Vai Enze, vai Enze, maledetto. Noticing my idea, bloody hands inside her soul. successo? Ma che è successo? Niente. Grunwalski è morto di freddo. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. Mancano una decina di minuti per concludere il nostro collegamento non francofono, però comunque sempre dal Belgio, dove il nostro sociologo Calzolai ci ha parlato della baracca. Lui si trova lì come inviato speciale in un vagonaccio montato all'occorrenza dal nostro Enz, qui in studio nel vagonaccio italiano. Invece ci siamo sempre io, Strelnik e Liv, che vi aggiorniamo anche su quello che succede, incrociamo anche, diciamo così, in pieno multitasking, questa dannazione moderna, incrociamo anche quello che succede alle nostre spalle, cioè magari su altri media, su altri siti, su altri canali televisivi, su altri social network. Insomma, è un crogiuolo, un termine che è stato usato dal nostro sociologo parlando dell'Europa pochissimi minuti fa, che cerchiamo di rendere il più armonico, il più mangiabile lo stesso, questo polpettone di Parla come scrivi, che però stasera si è svolto con questo tema preciso. Ringraziamo tutti gli Yovo Web spettatori, anche se abbiamo ancora una decina di minuti di trasmissione. Rimbrottiamo il nostro Enz per i soliti comportamenti immorali, sicuramente non ha un'integrità. Amorali. E un piccolo molto morale, Enz, ha dei comportamenti amorali. Sociologo, io adesso lo faccio riparlare, gli ridò voce tramite Skype. Lei ci sente, vero? Sento benissimo, vi ringrazio anche la parola. E naturalmente noi lo ringraziamo prima di tutti. Lei, ogni tanto si dà del lei, forse la distanza, queste migliaia di chilometri che ci separano allungano, bislungano il nostro tu in lei. Ci vuole una lettera in più per raggiungerla, Sì, ci vuole una lettera in più. Ragazzi, ve la dico, qui stare in Belgio si sviluppa un po' la riflessione critica sull'Italia, forse la si potrebbe fare anche in Italia, però mi sembra che non la si faccia. Voi che ne dite? Che succede? Qual è la vostra impressione? Sei mesi fa, anche di più, si parlava di crisi economica, o comunque sia di un cambiamento. Qual è la tua impressione, Strelli? Facciamo la lunga notte della Repubblica prima di domande del genere. No, non fate caso là. Torniamo alla baracca. Io la ringrazio tantissimo per questa domanda, che però non merito, perché non merito proprio per niente, perché non ho possibilità di risposta. Sarebbe una lunga sequela di bestemmie. La presente della carrellata in cui Benigni dice le puppe per di merda, dai stronzi, chi è? Ecco, sarebbe una cosa che non mi sembra igienico, anche se nostra trasmissione, diciamo così, anela i puzzi punk di ficcarci dentro una serie di... Qualcuno dice che è peggio da venire. Comunque, i nostri chat sono sempre molto ottimisti. Volevo ritornare alla baracca. Comunisti, chat comunista che non siete altro. Volevo ritornare alla baracca dicendo, però ci sono, al di là di queste discrepanze, questo, diciamo, confronto più o meno acre che viene fuori a seconda di come le persone intendono la loro esistenza, la loro appartenenza, il loro stare dentro la baracca. Gli spazi come, ecco, la gestione comune, la gestione degli spazi comuni, sì. C'è, esiste per, ne so, ancora, cioè è sentita, è partecipata, c'è una serie di, una vera partecipazione dal basso per parlare appunto e per decidere riguardo agli spazi collettivi, alle varie iniziative che si fanno, o diciamo così, ci sono quello che poi succede anche nelle altre società, cioè si formano più o meno delle elite, delle... Non so bene come, insomma, si sclerotizza un po' lo spirito originario. c'è un'associazione che decide le attività culturali e decide anche l'amministrazione della baracca. Quindi c'è, diciamo, sì, c'è una forma di rappresentanza, vengono eletti dei rappresentanti, però si parla di comunque sia di piccoli gruppi, cioè c'è una piccola elite. Comunque sia c'è sempre una strutturazione della rappresentanza e quindi anche del potere, anche nei piccoli gruppi, se il potere in questo caso però ad essere inteso come gestione di un'economia solidale. Certo. Forse, e se sono revocabili anche i rappresentanti, lo dicono in qualsiasi momento, però se sono facilmente revocabili e sostituibili laddove non corrispondano più, cioè anche alla felicità generale. Sì, anche perché nel corso degli anni, come dire, l'idea di espropriare pezzi di terreno per edificare delle villette o case che rientrano nel piano regolatore del comune di Lottigny, Nouvelle Neuve, questo nel corso del tempo c'è stato e ha dato luogo a risposte tipo manifestazioni, atti di protesta e così via. Però nel corso degli anni purtroppo mi si diceva che, diciamo così, questa tensione politica si è un po' ridotta. Quindi vedremo un po' se la baracca continuerà in questa sua... Sicuramente la baracca non sta crescendo. Non sta crescendo. Perché, e da una parte perché anche il comune ha fatto delle politiche abitative per gli studenti. E quindi comunque sia, cioè, non è che ci sia soltanto la baracca come istituzione, ma c'è una politica urbanistica di un comune che è condizionata da una sorta di effetto i prezzi vengono calmierati, anche i prezzi degli affitti, perché si può anche abitare in delle casette che sono un po' precarie, però consentono l'abitabilità e quindi anche i prezzi degli affitti possono, come dire, essere influenzati da questo. C'è anche un effetto esterno, eterodirezionale, diciamo, all'attività propria di questa comunità sociale. Sì, io penso, quando dici casette precarie mi viene già l'ansia, ma in Belgio è una zona sismica, che tu sappia. No, perché le casette precarie ultimamente non è che dalle nostre parti vadano un granché di moda. Sono delle immagini, se le cercate su Google ci sono delle immagini, anche se ci sono dei rimandi, dei links su Wikipedia. E no, sono delle case che si possono accogliere, delle persone, più di una, più persone che i livelli qualitativi non sono quelli di un edificio, di un'abitazione, diciamo così, come siamo abituati un po' più noi. Occidentale, però comunque sia non sono precarissimi, ecco. Mm-hmm. Ci si può abitare. Bene. Allora, la trasmissione credo che sta finendo, i nostri web spettatori si sono calmati, probabilmente hanno bevuto, si sono nutriti delle tue parole, delle sue parole, Cazzolai. Mi permetta di utilizzare gli ultimi minuti, come ho detto questo mi si è riaperta la chat, avevo banco a dire... Sì, è ok. No, c'era il nostro Davide che diceva la crisi economica è arrivata anche alla baracca, sì, come naturalmente, certo, la crisi economica la staranno sentendo, naturalmente la stanno sentendo. Ma io volevo chiedere una cosa molto più semplice, una curiosità, così i nostri web spettatori e anche io, domani quando mi sveglierò avrò la visione del social calzonai in Belgio. Com'è la vita di un sociologo in Belgio? Tipo, la sua giornata tipo, lei che fa? Si sveglia la mattina, compra un croissant, va a prendere il giornale e poi con la baguette sotto braccio va in giro? Ci racconti un po', siamo curiosi. Come si vive in Belgio? No, io vivo tranquillamente, ma la mattina, più che altro è studiare, tutto qua. Cioè, chi manda i ridacchi sulle chat di Skype su questa domanda, no, più che altro si studia, si cerca, sì, no, ma in genere io dico come si vive, si alza la mattina alle 9, si mangia un panino, una baguetta all'una e si torna, ci si fa un caffè e poi si torna fino alle 7 in una stanzina condivisa con un simpatico ricercatore inglese di Warwick che parla un francese peggiore del mio. Poi quando parlo in inglese c'è un po' di problemi perché è del Galles, quindi non capisco un cacchio di quello che dice, però ci si intende bene o male. Comunque sia, la sera dopo cena è un grandissimo bevitore straordinario. A quantità industriale, cioè l'osa, ma sorpresa, infatti se dal rapporto formale della mattina, cioè la sera, siamo diventati come fratelli, e anche questa un po' l'Europa e l'università, l'esperienza, questa piccola breve esperienza a Louvain-la-Neuve. Bene, bene, bene, bene, la convivialità comunque è sempre ragione di... Certo. Godimento, anche in... Comunque sia, c'è una cosa bellissima della campagna belga, e in pratica non c'è un caso. Non c'è nulla. Sono chilometri e chilometri di campi, sì, coltivati. Forse la coltivazione è anche un po' eccessiva, un po' intensiva, sì. Ma io sto perdendo le parole in italiano. E quindi parli pure francese. Noi siamo proprio internazionali. No, vabbè, no, il francese, ero qui apposta per, volevo sfoggiare il mio francese in una... Ma facciamo un po' un minutino di francese, perché stiamo parlando di mezza Europa. Ah, non stiamo entrando a parlare a mezzo, on parle anglais, on parle portoghese, on parle francese. Qu'est-ce que je voulais dire? C'è l'economia solidale. E on parli sì di economia solidale. Ma non stavi parlando di... No, parlaci di francese, quello che fai la mattina. Ah, la mattina, no, già. La mattina c'è prendre mon voiture avec le navigateur, perché c'è un problema avec le parkour pour arriver à l'université, ma ci sono tranne migliori di giorno, sì, che ce n'è pas. Donc je n'ai pas plus besoin de mon navigateur. Sto parlando del navigatore da un minuto. Messie Cassolari, dicono di più di francese. J'arrive là-bas, j'y gare. Messie, sta parlando a te. Qua. Sto dicendo che più che francese dicono la chat che sembra francese. Dai, peut-être, oui, peut-être. Peut-être, sì. Prego. E niente, poi posso continuare in italiano, sì. E poi semplicemente la sera si gironzola per questi posti qua a cazzeggiare, che sembrano posti molto tranquilli, silenziosi, molto carini, specialmente le città, le piccole cittadine della fuori Bruxelles, verso della Vallonica, un po' gironzolato, vissuto. Urbanisticamente sono molto carini, la gente è simpatica, ci si parla tranquillamente in francese, lo giuro. E niente, non gliene frega un cazzo se sei italiano o di chissà dove. Molto socievoli, gentili, e si parla un po' con tutti quanti, si scherza, però due mesi qua non significa certo, come dire, una socializzazione piena, ma una legami larghi, legami deboli, così. Poi magari si incontra qualcuno, ci si fissa per la sera, sempre uomini, non con le donne, belle, ancora non ho avuto esperienze. Non ci interessa, cioè non vogliamo... Sicuramente non lo diceva per radio, vero, voglio ben intendere che avrebbe fatto il gentiluomo e non l'avrebbe detto per radio. Sì, esatto. E poi continuando... Anche perché le preannuncio che non abbiamo intenzione noi qui italiani di sentirla ogni anno lamentarsi d'amore in tutte le lingue del mondo. Quindi se lei torna e si lamenta quest'anno in francese, noi la molleremo. È una minaccia. Esatto. E poi si continua, si studia più che altro. Bravo. Questa sia una cosa molto bella, cioè studiare, cercare di aprire le cose, però bisogna vedere se le cose poi effettivamente si riescono. Lei studi molto, si professionalizzi, si specializzi, che come torna in Italia noi apprezziamo moltissimo quelli che studiano e approfondiscono. Si prende la laurea. Come tornerà in Italia sono certa che la nostra patria saprà riaccogliere la braccia aperta e troverà un mondo che l'aspetta. Se c'è ancora. Se esiste, non. Nel frattempo. Ragazzi, io vi mando un saluto a voi due che siete tanto bravi e buoni e simpatici. E poi a tutti i vecchi cari ovo spettatori che non si sentivano da tempo e ci fa sempre piacere sentirli. E vi saluto così. Un po' dispiaciuto perché l'ospite della serata ci ha dato buca, cioè avevo un problema all'ultimo momento. Vabbè, ma noi rispettiamo, sappiamo. Sì, però le faccio notare nello spirito della diretta radiofonica che non è professionale ricordare agli Ovo Web spettatori che si è cannato una puntata 12 volte. Facciamo finta che non è successo niente, calzolaio. Va bene, questo va, no, ma per dire che in fondo, cioè, anche se, come dire, improvvisato un po' come tutte le volte, cioè, l'idea sì, dovrebbe essere portata avanti un po' questa riflessione su cosa cazzo facciamo d'ora in avanti. Ecco, questa è l'idea, in fondo, che non è una cosa da poco. E su queste parole io vi saluto. Noi la salutiamo altrettanto calorosamente. Salutiamo tutti gli Ovo Web spettatori che dall'Italia e da molti altri paesi europei ed extraeuropei ci hanno seguito così numerosi questa sera. Vi diamo appuntamento a una prossima puntata di Parla Come Scrivi. State collegati, mi si dice stay tuned, per sapere quando e come ci sarà una nuova puntata, se ne rifaremo collegandoci dal Belgio o da altre città europee o da qui fuori appena. E noi vi salutiamo ancora tutti, salutiamo quel gran geniale di Enz. Ciao Enz, torna presto. Torna presto e non fare i soliti casini a cui ci hai abituato. Ringraziamo gli Haunted by Ghosts, che è Ghosts. Questa compilation scaricabile gratuitamente sul sito ghostpr.wordpress.com. Poi trovate il link sulla pagina del sito di Radio Catarame 19, l'etichetta è la Ghost Records, mi sembra di aver detto tutto, grazie Liv. Grazie Strelnik, grazie Calzolai e grazie a tutti i nostri ascoltatori da varie parti del mondo. Ci sentiamo prestissimo, qui e nelle MP3 del futuro. Enz non c'è, quindi dobbiamo mandarla a me. Radio Catrame 19, la radio inusuale.